Radio 24 Reportage. Pixar, l'arte dietro ai capolavori dell'animazione, di Marta Cagnola. Siamo al PAC, al Padiglione d'Arte Contemporanea di Milano. Pixar 25 anni di animazione, un viaggio dietro le quinte tra gli oltre 700 progetti che hanno portato alla creazione di pietre miliari del cinema di animazione come Nemo, Toy Story, Cars, Ratatouille, Monsters & Co. o Gli Incredibili. Ad accompagnarci tra le sale della mostra due guide d'eccezione, la curatrice Maria Grazia Mattei e una vera e propria leggenda, l'uomo che fondò la Pixar insieme a Steve Jobs nel 1986, John Lasseter. Andy andrà al college, mi sembra impossibile. Calma ragazzi, non facciamoci prendere dal panico. Dove ci sta portando? Avrei dovuto aspettarmelo. Andrà tutto bene, Jesse. Oh, odio tutta questa incertezza! La cosa che colpisce subito è che ci troviamo davanti a vere opere d'arte. E questa è la scoperta e la sorpresa, in effetti, che colpisce tutto e colpito anche me con Lasseter. Aveva detto appunto portiamo la mostra a Milano e io poi sono andata a vederla a San Francisco in una delle tappe dell'edizione precedente e devo dire che quello che emerge è questa ricchezza incredibile di fantasia, di capacità espressiva, creativa, un uso di tecniche infinite, ma capisci che ogni film è pensato in tutti i suoi dettagli, sperimentato con tutte le tecniche espressive, dalla matita all'acquarello al collage. At Pixar are films. Alla Pixar i nostri film sono fatti per divertire il pubblico, ma quando noi creiamo questi film vogliamo creare personaggi, storie, mondi che nessuno ha mai visto prima e che siano bellissimi. Mi piace sfidare tutti gli artisti che lavorano alla Pixar a creare cose che li ispirino. Forse tutti quelli che vengono alla mostra penseranno che si tratta di disegni con lo stesso aspetto dei prodotti finiti. Non è così. The wide variety of paintings, of pastel, of collage, of pencil sketches, of... Sono dipinti, acquarelli, collage, schizzi, sculture, a volte molto stilizzati, ma evocano delle emozioni che ti fanno dire «Wow, sarebbe bellissimo entrare in questo film!» That would be great to get into this film. Normale? Mamma, io vorrei essere normale! L'unico normale qui dentro è Jack Jack e porta ancora il pannolino! E si capisce anche come nascono i personaggi, perché vediamo una Boo di Monsters & Co. che ha tantissime versioni diverse, ci divertiamo anche a ricordarci qual è la versione finale, si capisce che ci sono tante menti, tante mani e vediamo tutto, vediamo proprio il personaggio come nasce. È un po' come entrare più che dietro le quinte soltanto alla produzione del film, entrare nella Pixar Animation Studios. Quasi quasi in certi momenti ti sembra, come dire, di vedere questi autori, illustratori, artisti, pittori all'opera per la creazione del personaggio, per esempio, no? C'è anche la scultura però, perché ci sono delle teche con dei veri e propri, me li abbraccerei, ci giocherei, sono dei pupazzi divertentissimi, ma sono delle vere sculture. Sì, queste belle teche disegnate da Fabio Fornasari sono come dei presepi, non lo so, e hai ragione, verrebbe proprio voglia di infilare la mano dentro queste teche, però si possono scoprire e guardare veramente questi personaggi, sono le macchette, sono i modellini tridimensionali. Stai piangendo? No, sono felice, almeno non lo devo più controllare a ogni ora del giorno, sono contento che se ne sia andato. Grazie, ma in questi primi giorni di mostra ti sei nascosta a guardare le reazioni delle persone e soprattutto dei bambini? E come no? Sì, devo dire che è straordinario. Quando vai dentro questa installazione meravigliosa che è l'Artscape, che è un po' un viaggio dentro il loro mondo artistico, quindi dentro tutte le loro tecniche, attraverso tutti i loro personaggi, mondi, storie, eccetera. Ed è veramente, non si può descrivere, bisogna viverlo, è un'immersione dentro la loro... Io lì mi divertivo tantissimo perché i bambini... I bambini conoscevano tutto, citavano appena compariva un personaggio il nome esatto, non ne hanno perso uno e quindi erano entusiasti. Infatti anche John Lasseter ci ha spiegato perché i bambini capiscono l'arte meglio degli adulti. This exhibit first appeared at the Museum of Modern Art in New York City. Questa mostra è apparsa per la prima volta al Museo di Arte Moderna di New York. Uno dei più grandi complimenti che ci abbiano mai fatto è stata la chiamata delle guardie. quelli che controllano le sale. Ci hanno detto che è stata la mostra più bella che abbiano mai visto. E sapete perché? Perché era piena di bambini che spiegavano le opere d'arte ai loro genitori. E questa cosa non era mai successa nella storia del museo. And they were so excited because never in the history of the Museum of Modern Art has that ever happened. I bambini capivano tutto. Ed ecco perché è così entusiasmante per la gente vedere questa mostra. And I think that's what's so exciting for people to come see this exhibit. Quindi, Maria Grazia, abbiamo già svelato cosa c'è in una di queste tende nere. Nella seconda tenda, cosa facciamo? Lo sveliamo cosa c'è, perché effettivamente quando si entra si vive una magia del tutto inattesa. È bellissimo, è lo zootropio, dai, diciamo che cos'è questa installazione. Lì scopri che cosa? La magia del cinema. Perché lo zootropio è un omaggio alle antiche tecniche di animazione del protocinema, se vogliamo. Lo zootropio metteva in movimento attraverso delle fessurine, delle figurine, eccetera, e tu vedevi un movimento, quindi l'illusione ottica. Poi c'è un momento magico dove di colpo queste figure che sono state posizionate nell'installazione cattano e diventano come un film tridimensionale nello spazio. Non è finito, perché comunque c'è un excursus e una spiegazione di quello che succede dopo queste opere d'arte. Ci viene la curiosità di capire come tutto questo si integri poi per avere un vero film di quelli che poi vediamo al cinema. Si svolta questa parete ed entriamo nella parte più digitale. Quindi lì troverete 5 pezzi storici firmati da John Lasseter insieme a tutta la produzione dei corti della Pixar della prima ora. Poi questa tradizione è proseguita affiancandosi ai lungometraggi. Ogni lungometraggio è sempre raccontato e anticipato da un corto. Ha bisogno che l'aiuti in qualcosa oggi, signore? No. Potrei aiutarla ad attraversare la strada? No. Potrei aiutarla ad attraversare il cortile? No. Ma devo aiutarla ad attraversare qualcosa? No, me la cavo benissimo. Io voglio concludere in compagnia di due personaggi straordinari, che sono le grosse riproduzioni di Sally e Mike, perché proprio loro, e quanto sono impazziti tutti per questi due pupazzoni, come avremmo veramente sognato sempre di vederli, reali. Insomma, sono ormai diventate delle icone, quindi quando li incontri, li puoi abbracciare, entri in questa tridimensionalità dove è possibile provare delle emozioni, delle sorprese, dell'affetto. Allora, ringraziando Maria Grazia Mattei, ma anche Mike, Sally e tutti gli amici in mostra al PAC di Milano, lasciamo l'ultima parola a John Lasseter. When I say at Pixar we get nothing for free, it means that in developing... Quando dico che alla Pixar nulla è regalato, intendo che creando questi mondi non possiamo semplicemente uscire con una macchina da presa, scegliere una location e filmare. Se tu vedi qualcosa in un film Pixar, qualcuno l'ha disegnato, l'ha modellato, ha collocato tutti gli oggetti, ha messo un colore, una texture, lo abbiamo illuminato, animato. Tutto è stato toccato dalle mani di un artista Pixar. E così questa mostra aiuterà la gente a fare un passo indietro e guardare i nostri film un po' più da lontano e dire: wow, qualcuno ha disegnato tutto questo. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.